one rules the nation, the version. And this is that UI says. You're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time. Okay? Yeah. Big up. Codename, More Fire on the Run. Codename, Babylon Action. Codename, More Fire on the Run. Radio, Babylon Action. Well, we have the lyrics weapon. It brandish when the dance get rum. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and of wisdom. Some of them are come with them imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when I ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rossa, massive, every time. Right? Yes. Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show. Torniamo finalmente in diretta in studio. Eh già. E io è un piacere tornare qua insieme a te, e non solo questa sera. Dopo mesi di lavoro agile anche in radio. Va bene, io direi che senza tergiversare più di tanto, insomma, possiamo salutare innanzitutto gli ospiti che abbiamo qui collegati insieme a noi. Ciao. Eh sì, perché tornare in radio è per un'occasione ghiotta come stasera, ossia per ascoltare Paolo Baldini and Mellow Mood, ospiti della serata di venerdì al Forte Prenestino. Ciao ragazzi, vi sentite? Io. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci. Già che siamo riusciti a far funzionare qualsiasi cosa qui a Radio Onda Rossa è una grandissima cosa, quindi siamo molto contenti sia insomma di avervi qui insieme a noi questa sera sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ma siamo ancora più contenti insomma di poter invitare tutti e tutte all'ascolto venerdì prossimo 17 novembre al Forte Prenestino per il DAB, a sostegno del DAB di Radio Onda Rossa, perché da primo novembre Radio Onda Rossa trasmette anche nella provincia di Terni in DAB, quindi insomma per scoprire perché, come e tante altre piccole curiosità, venite alle 18 al Forte Prenestino per questa piccola assemblea. Intanto allora dai, cominciamo un po' a parlare della serata e soprattutto di questa intervista che facciamo con Paolo e con Lorenzo De Mello, e lascio la parola a Fabio insomma un pochino per presentare i nostri ospiti. Sì, ci presentiamo per quelli che sono preparati, ovvero i nostri ascoltatori più fedeli, ma anche per quelli che si connettono per la prima volta o che magari sentono la radio in circostanze quali quelle del lavoro o di un viaggio, insomma anche casuali. Morfai è una trasmissione di reggae e gli ospiti di questa sera telefonici sono delle eccellenze della scena italiana. Del reggae e della nuova scena mondiale che un po' viene identificata con il nome di dub, che prende le mosse, cioè parte proprio dall'esperienza giamaicana di studio dei primi pionieri fondatori. E tu Paolo, o non so se Lorenzo, nella vostra playlist partite proprio con Kate Hudson, no? Con Pika Dub, che è un album per molti giudicato la Bibbia del dub, sì. Crucial, meglio come si dice. Meglio partire dalla cima, no? Sì, sì. Dall'apice. Esatto. E insomma, che prende le mosse lì, chiudevo soltanto l'introduzione, fino ad arrivare alle produzioni un po' più elettroniche e di nuovo tornare a quelle analogiche, che è un po' il percorso che ha fatto Paolo, mi sembra. Mi azzardo durante questi anni. Beh, è una lettura giusta, cioè alla fine io sono stato, diciamo, sono caduto nella trappola del dub perché ne sono subito stato rapito dalla componente elettronica, il dub inglese, quello che sfoderava questi bassi imprendibili, mi ha traghettato da quello che ero un ragazzino che amava il rock a scoprire la black music, ecco. Però poi quando scoprì Kintabi, le fondamenta diciamo della scuola giamaicana, capì che il dub era partito già con la sua cintura nera, che era appunto inevitabile. Così. Eh sì, e quindi da quello, brevemente, se partiamo da Beer Style, che è il primo progetto forse più noto al pubblico, insieme a Michela Grena, la voce c'era anche, se non sbaglio, fino a queste ultimissime esperienze che mischiano il lavoro in studio a quello fatto anche live alle Manopole, quindi a una sorta di esperienza collettiva di produzione, impresa diretta, che è lo show che ci presenterai venerdì, appunto. Esattamente, cioè, diciamo, il mio percorso, io sono nato come musicista, addirittura come chitarrista, però subì diverse fasi, diverse metamorfosi che mi permisero di capire come funzionava il controllo in questa musica. Quindi passai dalla chitarra al basso, nell'esperienza dei Beer Style prima, Africa Unite dopo, anche per con poi i DAB, nei controlli veri e propri, anche con i DAB Sync, io ricordo, con il basso, insomma, era molto divertente quel progetto un sacco di anni fa. Mi sono divertito un sacco a vedervi, sono fatto un sacco di saltelli. Sì, tra l'altro è stata la mia prima volta al Forte Prenestino, suonai con i DAB Sync, che è stato, diciamo, il primo esperimento che in qualche modo mi fece iniziare con gli Africa Unite, ma traghettai in qualche modo l'esperienza dei Beer Style in qualcosa di più elettronico, e è così, insomma. Beh, diciamo, non sapevo che fosse a quello che è stato. Dimmi. No, prego, scusa, continua, prego. No, dicevo, questa parabola per poi tornare al mixer analogico, che è sostanzialmente l'oggetto che ha determinato i connotati di questa tecnica, che è il DAB, perché il mixer analogico, la console che nella musica moderna serve sostanzialmente a miscelare i suoni, quindi a portare, diciamo, un contributo ingegneristico ma passivo, diventa un protagonista. Nel DAB il mixer è lì un narrante che toglie, cambia l'architettura proprio della canzone, la porta da formula canzone a qualcosa di estremamente psicadelico, che è l'esperienza, appunto, del DAB. Amen. Dai, infatti, una vera figata. E come insomma ti chiedeva poco fa Fabio, insomma, se ti andava, se andava anche a Lorenzo, insomma, un po' di raccontarci proprio quello che sarà lo show, no? Perché abbiamo spinto molto il Magnana Dub Live, questo riarrangiamento, diciamo, appunto, dub dell'album dei Mello. Volevo chiedere anche un po' a lui com'era, insomma, lavorare insieme a te, mette mano successivamente a un lavoro già fatto, e insomma, e poi portarlo in giro. Sì, ma allora, lo show di Dub Files, per quello che ci concerne, a noi Mello Mood, nel senso, per quella che è la nostra esperienza anche in passato, è sempre stato uno show a cui perlomeno noi abbiamo avuto un approccio molto di freestyle, diciamo. Questo show è un po' più strutturato, diciamo. E quindi quello che facciamo non è diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso, se non nel fatto che, appunto, portiamo alcune strumentali del disco dei Mello Mood, che poi Paolo ha adabbato sul disco Magnana. E sono delle strumentali con cui noi siamo molto familiari, perché ci abbiamo delle canzoni, però quello che facciamo dal vivo è comunque quella cosa un po' di freestyle, quindi non cantiamo. Proponiamo delle cose diverse sulle strumentali nostre, di questo sono anche felice, perché a molte di queste strumentali lavorammo, soprattutto io e Paolo insieme, nel 2020. E poi c'è, insomma, lo show è un vero viaggio, nel senso che c'è un po' di tutto musicalmente. Le nostre strumentali sono quelle un po' più leggere, se vogliamo, dello show, poi si va anche sul pesante, ma è uno show molto energetico, di solito. Chiaramente a Roma suoniamo molto tardi, perché suoniamo dall'una alle tre, se non sbaglio, ma cercheremo di fare uno show comunque molto energetico. Vabbè, certo. Però devo dire col passare degli anni, questi orari, che sono gli orari del della musica underground, soprattutto della musica reggae, della musica dub ancora peggio, cominciano ad essere un po' problematiche, devo dire. Faccio un appello a tutti gli ascoltatori, signori. Concordiamo, sia. Ai concerti bisogna iniziare presto. Però comunque sarà uno show molto energetico, ecco, questo sì. Non saprei come altro descriverlo, è molto potente, ecco, quello che cerchiamo di fare è portare una cosa molto potente. Il dub di oggi è forse, cioè il dub, la scena dub europea è sempre più techno in un certo senso. Lo spettacolo di Paolo non è così, è anche molto roots, però c'è molta potenza, diciamo. C'è molta potenza, ma non è uno show oscuro, ecco. Bene, io devo dire, sono molto molto curioso di sentire venerdì quello che succederà. E, se siete d'accordo, io metterei una delle canzoni che avete scelto, che è una delle, anzi è proprio l'ultima produzione, Como Yo. Sì, tra l'altro questa Como Yo ho letto che nasce proprio da un'esperienza live fatta a Bogotà. Un live organizzato all'ultimo momento. Esatto. Va bene, vogliamo fare che ne chiacchieriamo dopo? Intanto ce la sentiamo? Allora, prima la mandiamo e poi facciamo due chiacchiere su come nasce questo pezzo. Allora, Mellow Mood insieme a Paolo Baldini. Il pezzo si chiama Como Yo e voi siete sempre su Radio Onda Rossa e questo è More Fire Reggae Radio Show. Boom Fire! Latino America è il lugar más bello, ma non si arriva si lo sientes como yo. God Almighty ma protect we from above. Lord. Latinoamérica es donde yo estoy mejor. Minamata y fa frío o rif calor. El más alto nos protege from above. Jump on a plane, come and go pa'ya. Shungo pa' con with the people pa'ca. Give me the beat, sentamelo ya. Aquí la vibra nunca falla. Mano pa' arriba que gane la vida. Mi gente latina nunca parará. Hasta fuego en we heart pa' toda América. Desde México hasta Chile vaya este flow. Pase por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, por favor. Down song in a Cuba, gringos no se we home. Calienta Paz, calienta Pablo. En Argentina me escuchan one song. Panamá, Bolivia, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador. Mano pa' arriba mi gente latina. Que gane la vida y que gane el amor. Dos países ya no con muchas países amor. Guyana, Surinam, Brasil, Paraguay, on top. Los brazos abiertos, that we can get enough. Give me the cumbia, give me the masa, give me the salsa, give me the plants. And make we spread the love, yeah, out like water, come on from the phone. Si, ya no, Latinoamérica el lugar más bello. Manos arriba si lo sientes como yo. God Almighty, my protect we from above. Lord, míralo. Latinoamérica es donde yo estoy mejor. Menos marcha y fue frío o riz calor. El más alto nos protege from above. Cuatro cabios de aquel, en comena de Trinidad. La familia de ella también. Watch out, pasa el tren. Mashing up everything. Killing another rhythm. No we defend that we recommend. No blaze it, yelling not only pan that we can. Digging up you new culture. From Brazil to Colombia, toda la gente latina. Mi brother them in Argentina. In a Lima, we a Sia. We no sell out like arena. Kilometers come between us, but we soon reach to your cena. If you feel the vibe, come make we dance como yo. Pronto coming at you, míralo, míralo. Only fire hot, me say anyway we dead. It's on the big thing, let the best man play. Everybody in the crowd, they go elelelelele. Dale, dale, andale, lele. Arriba si lo sientes como yo. God Almighty my protect we from above. Lord, míralo. Latinoamérica es donde yo estoy mejor. Menos marcha y fue frío o rif calor. El más alto nos protege from above. Onda Rossa, More Fire Show, big up Fabio Biangianni. Boom! Mamma mia, quanto gli piace a Fabio proprio. Non ve lo ricordavate questo jingle fatto alla serata con Janine all'Intifada? Ho catturato i gemelli all'Intifada. Va bene, comunque, sempre 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo tornati in diretta, questa era Como Yo. Questa era Como Yo, sì. Un pezzo un po' che è dedicato a Latino America, in particolare abbiamo detto alla Colombia, dove c'è anche gran parte del pubblico che vi segue. E lo stile era quello stepper, ma facendo due o tre passi indietro, visto che a me mi era venuta la curiosità e tra l'altro era una domanda che mi era stata cassata, che non aveva passato il vaglio, non è vero, non aveva passato il vaglio, ma non sarò qui a fare adesso questa polemica insieme a te, Fabio. Volevo leggerla proprio, se la trovo, che in qualche modo arriva alla questione del dub, o più che altro della deriva techno che ha preso. E la domanda, adesso la prendo nello specifico, consisteva in: evoluzione sociale del reggae in Italia dalla controcultura al mainstream fino alla deriva dub techno. Mo sembra un po' un titolo di un saggio, sembra. Per cui tu prendi solo lo spunto, poi di quello che ti vale, tu e Lorenzo chiaramente. È un po' ieri, quantomeno l'inizio della risposta, Paolo, perché non so. Sono affermazioni forti, cioè ripetimi la descrizione, perché ho sentito il reggae, il dub nasce un po', scusami, parlando dell'Italia, parliamo solo dell'Italia, quindi restringiamo il campo. Sì. In Italia come il rap viene dai movimenti di controcultura, un po' anche la Pantera, l'abbiamo citato tante volte, e quindi appartiene a un determinato ambito. È vero che tutto andrebbe valutato anche in rapporto al cambiamento sociale, quindi al di là del genere ristretto del reggae, quello nostro. Però insomma volevo certo. due spunti riguardo agli inizi, quindi al fatto che parte proprio da una controcultura, fino non tanto al mainstream che c'è sempre stato del ragamuffin, perché quello c'era con Yellowman, poi è stato con Shabba, poi con Sean Paul, ma ci interessa meno anche come trasmissione, che siamo un po' più focalizzati sul roots, e fino più che altro rispetto alla deriva di adesso, dove un po' confluisce anche un altro pubblico di quella che era una controcultura, ovvero quello techno, però portando con sé anche delle caratteristiche peculiari, specifiche, diverse da quelle del reggae, diciamo, degli albori o della classica idea di reggae, Irie, diciamo, Rastafari e tutto. Mi permetterei di fare una personale lettura, nel senso che tante volte sento dire che nell'espressione inglese digitale il dub incontra la techno. È una cosa che si può dire, perché in qualche modo c'è il lavoro della cassa dritta, però diciamo che dal punto di vista della grammatica musicale non ci azzecca molto con la techno, perché la techno ha una sua grammatica, ha una sua costruzione, mentre invece il dub lavora su addirittura anche proprio una grammatica diversa, c'è il basso, non c'è il gioco di sidechain con la cassa. Cioè, se vogliamo fare un discorso squisitamente musicale, forse i luoghi di consumo si sono un po' assomigliati, il discorso sociale più che quello tecnico, proprio quelli che di fatto poi vanno alle serate e che poi magari si guardano negli occhi. Secondo me c'è stata una condivisione, secondo me a livello sociale c'è stata una leggera sovrapposizione, perché c'è stata una condivisione innanzitutto degli spazi, cioè che erano molto, diciamo, dagli spazi della cultura rave fino passando per i centri sociali, cioè sono luoghi di consumo di due musiche che andavano a assomigliarsi in qualche modo, e poi anche si sono in qualche modo sovrapposte le tecniche di amplificazione, perché prima che si diffondessero gli impianti autocostruiti specifici per il dub, gli impianti della techno erano usati per tutta la black music, per tutta la musica elettronica. Quindi secondo me è lì che si va a cercare un po' la somiglianza. Io, diciamo, parlando squisitamente da musicista, la vedo molto lieve questa assonanza tra le derive del dub più spinto elettronico e la tech pura. Non so se sono riuscito a disinnescare. No, hai centrato perché io ho lasciato l'introduzione tecnica perché era squisita e favolosa, e però sei arrivato a quello che era il punto, che era appunto il punto di vista sociale, cioè l'ambito sociale dei due generi musicali più che quello tecnico. Quindi hai preso. Secondo me c'è stata una divisione anche, diciamo, dal punto di vista sociologico c'è anche una peculiarità, cioè diciamo i due generi si tendenzialmente si dividerebbero anche per un diverso consumo di droga. Diciamo che una. No, secondo me era un'osservazione molto giusta questa, e secondo me si sta sottigliando un pochino anche sotto quel punto di vista, e qui secondo me poi ce ne sarebbe da aggiungere, insomma, però sì, andiamo oltre. Vogliamo parlare un pochino appunto del processo creativo proprio che fate, che mettete in atto nelle produzioni, anche quelle appunto con Lorenzo, nel senso a me proprio una curiosità di sapere da dove partite, se c'è un punto di partenza dal quale appunto vi relazionate, oppure se c'è qualcuno che porta dentro qualcosa e poi mano a mano ci si lavora, oppure proprio diciamo una panoramica su questo approccio, che deve essere molto diverso, insomma, rispetto a tutti quanti gli altri che magari avete provato in quanto musicisti. Ma allora provo a dire una cosa che secondo me è interessante, cioè in questo caso, parlando appunto di Magnana Dub, ovvero dell'operazione di trasposizione in dub del disco Magnana dei Mellow Mood, che diciamo, io ho prodotto con loro, è un bel esempio di come si passa dalla scrittura di canzoni, di musica reggae, alla produzione di canzoni reggae e alla post-produzione per realizzare diciamo, un'opera diversa, che è appunto un disco dub. In questo caso, come spiegava prima Lorenzo, si parte dalla produzione dell'album, perché come faremo anche dal vivo, cioè ci sono canzoni che sono nate in studio con la band, diciamo in modo canonico, no? Con l'apporto musicale di una band di basso, batteria, chitarra, tastiera, e si costruisce la canzone. Nell'esperienza del dub c'è proprio una, diciamo, cambia la gerarchia degli elementi che costituiscono il brano e si vanno a creare degli squilibri che vanno a favorire tutto l'aspetto dance della, cioè l'aspetto, diciamo, tribale e dance della canzone, che vengono appunto esasperate dal basso, dalla batteria e poi in ultimo dall'apporto degli effetti, che sono un po', diciamo, il mio laboratorio stabile in studio, ed è un po' quello che mi porto in giro per i live, ecco, di cui venerdì daremo un certo assaggio. E darei pure la parola a Lorenzo. Allora passiamo dalla digressione dub all'album normale Magnana, che invece è un album ricco di collaborazioni. Sì, è un album ricco di collaborazioni dopo un album che non ne aveva, e dopo varie circostanze, diciamo, generali, perché Magnana è stato comunque scritto e bene o male realizzato durante una fase in cui non si potevano fare i concerti, eccetera, eccetera. Probabilmente un po', diciamo, le circostanze appunto hanno fatto sì che uno sentisse la voglia, anche il bisogno di connettersi con i colleghi in giro per il mondo. E poi anche il fatto, diciamocelo chiaramente, che oggi veicolare una canzone, visto la saturazione delle varie piattaforme, diciamo che tendenzialmente una collaborazione con un altro artista dovrebbe aiutarti, non è una regola che vale sempre, però è così, quantomeno per il fatto che, sai, almeno hai due entità con due pubblici tendenzialmente diversi che promuovono lo stesso contenuto, in teoria ti dovrebbe aiutare. Però in verità c'è molto, a noi è sempre piaciuto collaborare. E in questo caso ci siamo anche tolti, come dire, con Magnana degli sfizi, perché comunque avevamo anche delle collaborazioni piuttosto ambite, no? Abbiamo Kabaka Pyramid quello è stato un pezzo fatto tra l'altro prima di tutti gli altri. Abbiamo Conscience, abbiamo poi invece altre collaborazioni che sono quelle nate da, come la maggior parte dei nostri featuring, da un rapporto comunque di conoscenza, di amicizia anche con vari colleghi, il signor Wilson, gli Ameterians, eccetera. Quindi sì, è un disco molto internazionale, questo è sicuro. E per aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva prima Paolo, la differenza forse maggiore rispetto agli altri dischi precedenti è che credo che la maggior parte delle canzoni di Magnana siano nate in verità prima di tutto come strumentali. Forse anche per questo funzionano così bene i dub, almeno dal mio punto di vista è uno forse il più bello disco dub, quantomeno nel senso di quelli che Paolo ha fatto sui nostri dischi, perché i pezzi sono nati prima di tutto come rhythm, diciamo, no? E questa cosa noi la differenza, questa cosa la fa molto anche dal vivo, perché effettivamente sono stati dei pezzi che dal vivo funzionano molto bene, sono facili da arrangiare, sono facili da sgruvare, come si dice in gergo. Comunque sì, no, parlavi dei featuring, giusto? Sì, chi mi chiedevo, infatti l'hai detto tu, con Cabaca, vincitore del Grammy, ricordiamo, per chi segue meno il reggae, poi c'è Alborosi, c'è Anthony B e vari. E no, mi veniva in mente mentre parlavi, riguardo proprio, anche se è stato già un argomento, riguardo proprio al live, sembra che in particolare abbiate anche un'esigenza del live, ma anche per la parte creativa, perché banalmente uno potrebbe dire studio, album, poi live dell'album. Invece questa cosa con voi si rincorre, perché la parte del live è anche già una fase creativa per il progetto successivo. Questo era quello che mi veniva in mente mentre ti ascoltavo. Non so se ho capito bene quello che intendi dire. Poi formulo di nuovo, intendi dire che uno potrebbe pensare che l'ordine è che uno fa un album in studio, dopodiché esce l'album, dopodiché lo porta in giro in versione live, sia nel lavoro vostro che in quello di Paolo. La cosa bella che mi suggerisce quello che ascolto è che nella parte live già c'è una parte creativa che porta al progetto successivo. Allora, diciamo questo, ho due risposte. Una sì, nel senso sì e no, cioè nel senso che tendenzialmente l'ordine, in effetti, è quello che hai detto tu, l'ordine canonico. Poi ogni tanto ci permettiamo, almeno noi, non lo facevamo da tanto, ma con col tour di, siccome Magnana è uscito ad agosto del 2022, ma noi eravamo già in tour, con quel tour lì ci siamo permessi di fare un po' di inediti, diciamo, prima di tirarli fuori. Però è vero anche in un altro senso, cioè che effettivamente personalmente il live è, diciamo, per esempio la maggior parte delle canzoni o delle idee, secondo me, in questo momento dei Mellow Mood, non sempre, però vengono a me personalmente quantomeno il giorno dopo del live. Mm-hmm. Perché live è il momento in cui di cosa funziona, cosa non funziona, cosa ti entusiasma, cosa non ti entusiasma, e quindi immagino che il giorno dopo tu hai una sorta di scia, no? di adrenalina musicale, quindi vai a pescare di qua e di là. Quindi in quel senso soprattutto il live secondo me è fondamentale per fare cose nuove, anche perché dopo tanti live, ma soprattutto dopo sei dischi, i primi dischi sei fresco, ogni cosa che fai non sai bene cosa stai facendo, perché è la prima volta che la fai. Al stesso disco non è più così, quindi hai bisogno di qualcosa, perché fare cose nuove dopo il sesto disco è piuttosto difficile, perché non dico che l'hai già quasi fatte tutte, ma sicuramente rischi di ripeterti. Il live è quella cosa che in questo momento della carriera, diciamo, della carriera della nostra band, secondo me ci aiuta a capire dove andare col prossimo progetto, come dicevi tu. Quindi ecco, smettessimo di suonare sarebbe un problema. Non da poco, diciamo, non solo per voi ma pure per chi insomma vi ascolta. Se siete d'accordo, io farei riposare un attimo le orecchie degli ascoltatori e delle ascoltatrici con un altro pezzo, e ci andiamo a sentire Da Blessing, sempre Dub Files e Mellow Mood. A tra poco. Fanne va già. Ce l'andiamo a sentire subito un'altra, Ticking Bomb, sempre Paolo Baldini e Malou. Bene, qualche piccolo overdubbing, appunto, però ecco, appunto, sono piccoli problemi che a Radio Onda Rossa ogni tanto ci capitano, quindi ci scusiamo per chi stava all'ascolto. Per questo, appunto, dovete sostenere la radio e venire il 17 a sostenerla al Forte Prenestina a sentire Paolo Baldini, Dub Files e Mello Wood, che sono qui insieme a noi in diretta, e bentornati. E andiamo un pochino avanti con l'intervista. E non so, fa, che cosa vogliamo chiedergli? Voi come vi sentite per questo show? Insomma, è da un pochino che non venite a Roma con questo tipo di show dub, quindi abbiamo visto, insomma, che siete appena tornati dal Sud America, le date lì, insomma, sono andate molto bene, abbiamo visto che ho un sacco di partecipazione anche per quello che diceva Lorenzo, insomma, la risposta del pubblico è stata bella carica, insomma, speriamo che pure per Roma, insomma, state belli gonfi. Prova a immaginare. E poi il forte è una città nella città. Sì, è vero, insomma, il forte è... Cioè, sì, esatto, qua continuiamo con i dub di qua e di là. Il forte comunque sì, è un piccolo mondo a parte. Quindi, insomma, si presta molto bene, insomma, a questo tipo di iniziative. Quindi dopo il primo lavoro Lash Dub arriva Maniana Dub e lo show che si farà tutto dal vivo al Forte Prenestino insieme a Paolo Baldini and the Dub File. E io ho una domanda che mi viene in mente rispetto al dub, ma anche quella, come tutte le altre, sono cose che un po' vengono dalla mia psiche e dal mio carattere. Mi chiedevo, ma quando è che un brano dub lo consideri, in questo caso la domanda è a Paolo, lo consideri concluso? Quando poi lo produci, lo registri, lo metti all'interno di un album? C'è una regola di chi produce il dub, diciamo, alla vecchia maniera, in analogico, che è quando schiacci stop, perché sostanzialmente la dub version è un atto, diciamo, di azione in tempo reale sulla song, attraverso il mixer, attraverso i canali, le ausiliarie, che si esprime e si registra nel tempo fisico della canzone, ecco. Non so se si capisce, cioè sì, ho capito. Schiacci rec, le tracce vanno, fai la tua ristrutturazione, apri le tue mandate, fai i colori, sovverti proprio le regole della canzone, quando la canzone. Ma ti è mai capitato? Se mai la rifai. Ti è mai capitato oppure una cosa che fai di rimettere, siccome abbiamo. Non ne abbiamo parlato, però il progetto Dub File nasce appunto da una ripresa impresa diretta di una sessione di registrazione dub. Ti è mai ricapitato di riprendere la stessa canzone o la stessa traccia o comunque la stessa fonte e poi creare una cosa completamente diversa? Beh, in realtà tutte le volte, perché quando io schiaccio play e le tracce partono, cioè io posso potenzialmente farla ogni volta in un modo diverso. Cioè, ho 10 canali attraverso i quali scorrono gli strumenti singoli che possono, diciamo che possono arrivare, possono incontrarsi in modo diverso ogni volta. Poi considera anche, uno, l'azione delle ausiliarie e degli effetti, e due, l'interazione con i cantanti. Tante volte, per gusto o per eccitazione del momento, le canzoni vengono scambiate. Cioè, ci sono delle version che lo stesso Lorenzo canta su altre basi. Cioè, è questo il bello di questo gioco. Ed è anche per quello forse che mantiene sempre una certa freschezza, no? Per questo possiamo dire a tutti gli ascoltatori che lo show che vedranno venerdì sarà uno show unico, irripetibile, che non sarà lo stesso poi un domani da un'altra parte. Io mi impegno a dirlo. Ma quello che abbiamo detto è un dato di fatto, è nelle premesse. E abbiamo sentito i due nuovi singoli e adesso andiamo a sentire un altro brano che abbiamo ottenuto chiedendovi un paio di playlist, e questo è quello che nasce da una collaborazione con l'Imperial Sound Army, con Danai, e nello specifico il pezzo è con Rod Taylor, His Imperial Majesty. Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie. Look how long, look how long, since we have been waiting down there. We have suffered and failed the day, year after year. Jehovah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jehovah Rastafari, Haile Selassie, set me free, set me free from Babylon slavery and misery. We are all of one religion, cause I'm a Chuba on Rastaman. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. Oh yeah, Rastafari. Oh, set me free, set me free from Babylon slavery and misery. We are all of one religion, cause I'm a Chuba on Rastaman. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. They took us away from Africa and brought us down here in Jamaica to work on the big plantation. All we see was frustration. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jahoja Rastafari, Emperor Haile Selassie. Oh yeah, Rastafari. Oh. don't think about me, I'm alright. Check me, check yourself, 'cause I'm a fool. Siamo di nuovo in onda, effettivamente io stavo sabotando la trasmissione, ma d'altra parte io sono un po' analogico, quindi quando non mi muovo coi dischi sto in imbarazzo e devo toccare. Se non tocco queste cose con i pulsanti non le capisco. Va bene, abbiamo comunque mandato altri brani della playlist che è stata suggerita. Io mi soffermo sempre su Kate Hudson perché comunque è veramente cruciale. Tra l'altro quest'album Picadab, oltre ad avere una coppia ritmica incredibile che erano i fratelli Barrett e la partecipazione di Augustus Pablo alla melodica, riprendeva dei brani seminali come quelli degli Abyssinian, ma la caratteristica peculiare è che un po' anche perché era tra i primi album specificatamente dub, non aveva dei campioni preesistenti, cioè non aveva una libreria, per cui tutti gli effetti diciamo accentuati con i delay sulle voci e sugli strumenti erano fatti proprio per l'album, non erano presi, non erano le frustate di Kintab. Vabbè, certo, diciamo. Era il 72. Non so se siete d'accordo con la mia analisi. Certo. Beh, diciamo, è una delle opere di Kintab più luminose, che sono, cioè che come prime opere hanno comunque dettato i canoni di questa tecnica. E quindi a distanza di 30, 40, 50 anni è ancora tanta roba. Tra l'altro in questi tre brani c'è questa pietra miliare, dopodiché... poi si arriva ai Dub Syndicate, che era il brano che stavamo sentendo, quindi a un esempio possiamo sintetizzare di Electro Dub con Styles Scott e Adrian Sherwood. No, quindi hai tracciato una linea. In quella circostanza, in quel brano che ho sottolineato, cioè che ho suggerito io, c'è un crocevia, perché è un remix dei Dub Syndicate fatto nel 2001 dagli Aeration Steppas. Esatto. Ed è secondo me un bellissimo esempio di due generazioni che si incontrano, perché comunque Styles Scott apparteneva alla era il batterista di Rus Radix, quindi ha suonato tutta la dance dei fine anni 70, sì, primi anni 80, le robe di Scientist soprattutto, esatto, cioè è proprio il batterista dell'ultima generazione di produzioni analogiche giamaicane, insomma, degne di nota. E gli Aeration Steppas sono stati forse, diciamo, il primo segnale avanguardistico dell'elettronica inglese che a tutt'oggi sono un suono estremamente riconoscibile. Io sono molto affezionato a quel remix perché mi ci sono fritto il cervello per anni. Aeration Steppas molto ristampati, ripresi anche dagli OBF, che hanno ristampato in vinile diverse cose. E sì, hanno ristampato dei classici, dei tape degli anni 90, addirittura dei DAT, ma stanno anche facendo robe nuove, sono robe nuove in pentola che bollono, che sono, secondo me, saranno molto interessanti. Il 2024 sarà un anno in cui usciranno delle belle cose. E per quanto invece riguarda voi, sia Mello che Dub Files, insomma, ci sono nuove cose che sono all'orizzonte, pronte ad uscire? State pensando di rimettervi all'opera? Quali sono i progetti per il futuro prossimo? Diciamo che ci siamo abbastanza fatti i calli, abbiamo lavorato molto e nel 2024 uscirà un nuovo disco di Dub File, dove insomma l'apporto dei Mellow Mood, di un sacco di ospiti, ma soprattutto di Mellow Mood e di Lorenzo, in questa circostanza fortunata, guarda caso, è proprio lui, insomma, ha lavorato tantissimo in questo disco che uscirà nella primavera del 2024 e che insomma ci stiamo lavorando ormai già da un anno. Ecco, è stato un lavoro costante del 2023 che vedrà la luce nel 2024. Yes. Ma si può parlare quindi, al di là dello stretto legame tra Dub File e Mellow Mood, proprio di una legacy? Comunque c'è un movimento dietro, anche stesso in Italia, anche con Forelock, Giulsai, l'etichetta, appunto, parla di, se vuoi dire qualche cosa sulla tempesta Dub, se vuoi, dico, presentare l'etichetta, dai Lorenzo, presenta tu l'etichetta, io ho parlato anche troppo. L'etichetta nasce dall'esigenza, da una circostanza per cui ci siamo trovati comunque ad essere il collettore di diverse energie, diciamo, ci siamo trovati a a registrare dischi, diciamo, non nostri, non so come dire, quindi con tanti altri artisti, a fare da collettore di vari cantanti, eccetera. E quindi devo dire che, allora, dico una cosa personale, spero, forse la speranza di tutti e anche l'intenzione è che l'etichetta, appunto, diventi sempre di più un'etichetta, cioè ci piacerebbe presentare e aiutare a presentare cose nuove, artisti nuovi anche nel nostro, anche nella nostra nazione. Devo dire che forse, però non lo so, forse fare l'etichetta di reggae 10 anni fa sarebbe stato più facile, nel senso che c'era molta più proposta che adesso. Adesso la proposta è molto poca, però devo dire che ultimamente ci siamo imbattuti in un paio di cose molto interessanti, personalmente inaspettate, che non interpreto come un segnale di nessun tipo, se non una bella scoperta, diciamo, ma non si sa, ma insomma, noi teniamo gli occhi aperti e se possiamo, diciamo, aiutare e presentare delle cose valide sul panorama nazionale e non solo, ci piacerebbe moltissimo farlo. Siamo un po', come dire, in questo periodo stiamo lavorando molto su tante cose, quindi non è facile, però l'etichetta è viva, è lì, è pronta, e abbiamo già fatto tante release comunque con questa etichetta, speriamo di farne altrettante, e se i tempi lo vorranno, insomma, sforneremo delle cose belle, ecco. Ci piace, è inutile dire che ci piacerebbe replicare quello che abbiamo fatto un bel po' di anni fa ormai, in Giamaica, sarebbe leggendario. Quindi il secondo progetto Dub File, quello a Kingston Six Embassy. Ma questi sono, sto parlando così un po' a vanvera, però è la verità, cioè è chiaro che però sarebbe bello forse uscisse adesso. È certo. Sì. È certo. Sarebbe... Vabbè, ma per sé il disco che uscirà di Paolo è comunque molto molto bello, è appunto a tante collaborazioni e alcune anche secondo me inaspettate, però i tempi sono diversi, i tempi sono cambiati, però l'etichetta vive e vegeta, anzi abbiamo anche fatto, diciamo, dei passi burocratici, se vogliamo, in avanti rispetto a prima, e quindi che sembra, però sono tante piccole cose che sono molto importanti poi quando uno si mette a produrre musica, perché c'è un mondo, insomma, che è quello anche degli artisti indipendenti, che molto spesso sembra un gioco, invece appunto dietro c'è un lavoro enorme, gigantesco, da parte dei produttori, e dietro un sacco di persone che appunto ci stanno dietro, e quindi anche queste piccole cose sono passi avanti giganteschi. Sì, siamo, diciamo, una manciata di persone, quindi il fatto è quello, il fatto è questo, che se si tratta, diciamo, di fare da nostro distributore, se si tratta di produrre delle cose, capite che c'è un produttore che è Paolo e che deve produrre tutto quanto, e quindi diventa una quantità di lavoro che è eterna, se vogliamo, però mi sembra che Paolo sia sempre molto volenteroso, quindi noi lo facciamo. Speriamo che di fare ulteriori scoperte, speriamo di fare ulteriori belle scoperte nei prossimi mesi. Dai. Non so, vogliamo aggiungere... No, andiamo verso la chiusura. Un po' la chiusura. Con un paio di domande. Una era una domanda che era un po' fissa nelle interviste che facevamo, e che era chiaramente in inglese: what is bad and what is good? Cos'è buono e cos'è cattivo del reggae? Non della musica reggae, ma di quello che gira intorno al reggae. Secondo voi, chiaramente, non è una cosa assoluta. O magari ampliando anche così per dare più argomentazioni. Dire, buono, sì. O cattivo? No, e qua ci leviamo i sassi dalle scarpe. Quindi no, cominciamo, è uguale, non c'è un ordine prestabilito. Dal buono, cominciamo dal buono. Se iniziate dal cattivo vuol dire che c'è un'urgenza di dirlo, quindi da un senso diverso. Però insomma non c'è un ordine. Dal buono, dai, cominciamo dal buono. Ma io provo a dire una cosa, magari poi Lorenzo aggiungerà, cioè, diciamo, partendo dal buono, il reggae credo che è sempre stato diciamo una musica che ha unito in modo molto equilibrato una componente di rivalsa sociale, di riscatto sociale importantissima e anche di riscatto spirituale, ok? Originato proprio in una realtà del terzo mondo che si è ritrovata forse ad avere un ruolo mai avuto prima da una realtà musicale del terzo mondo, cioè di produrre della musica e di per un consumo interno, ecco. E poi questo consumo interno è stato in qualche modo esportato fuori, ma questa cosa qua è, diciamo, è una componente benedetta di questa musica che nelle sue accezioni positive rimane, ecco. Poi magari quello che non c'è di buono è legato alla componente umana, perché poi alla fine lo fanno, diciamo, l'arte è fatta dagli uomini, alcuni di questi magari sono sottesi a dinamiche discutibili, insomma ci sono aspetti di certi eventi che si verificano all'interno della musica reggae che personalmente non mi rappresentano, ecco. Però non, sì, e sarebbe comunque un giudizio da umano su un'attività umana, quindi diciamo non giudico. Ti passo la palla, Lorenzo. Vai, prossima. Allora, Lorenzo. Certo, prossimo concorrente. Stavo a fare una battuta, Fabio. Mamma mia, no, pensavo volessi tagliare. Prego, sì, di cose cattive non me ne viene in mente neanche uno, nel senso che stiamo parlando di un genere musicale. Non, io penso che la musica reggae sia un genere molto positivo. Se fai, però, se fai il musicista reggae, magari soprattutto se lo fai in Italia, ma non solo, devo dire, diciamo che non, se devo dire, ma questo non ha a che fare con reggae, questo ha a che fare con altre cose. Ma se dovete trovare, diciamo, il sasso nella scarpa, se dovete togliere, non è senza dubbio, diciamo, l'industria più organizzata o più professionale. Ci si incontrano tante cose che ti farebbero passare la voglia di fare reggae. Però devo dire che noi abbiamo avuto una fortuna tale per cui siamo comunque riusciti a fare questo mestiere a un certo livello, dove certe cose le vedi anche meno, devo dire. Quindi, ecco, se proprio dovessi trovare una cosa negativa sarebbe quella, però ripeto, non ha a che fare col genere. No, certo, questo qua, a parte, vabbè, io non direi fortuna, e come dicono gli Africa Unite, non è fortuna, appunto, e non è stata fortuna, e soprattutto vorrei dire che c'hai molta ragione, è vero, perché comunque in generale fare il musicista in Italia già in generale è una bella sfida farlo per dei generi che magari non sono proprio quelli che classicamente sono quelli mainstream, diciamo, rende tutto quanto ancora più difficile, nel senso che le dinamiche diventano molto più diciamo nebbiose, ecco, così, ecco. Ma di nuovo, insomma, sì, effettivamente questo qua è uno di quelle cose che possono essere annoverate decisamente come cose che non vanno bene, quindi male, molto male. E infatti noi speriamo sempre che questa cosa, insomma, possa migliorare in meglio. E puoi fare un'altra domanda, no, diciamo, filosofica? Niente di filosofico. Quindi, se è difficile capparci, ma comunque è ancora possibile veicolare un messaggio, almeno ci consoliamo, come si diceva in Sicilia, con questo spicchio d'aglio. C'è comunque un riscontro, quantomeno, di messaggio che è possibile ancora dare con questa musica? O anche quello trovi che si sia appiattito? Io personalmente trovo che si sia, ma io penso che si sia appiattito in un certo senso, ma c'è stata sicuramente una, allora, tutto quello che succede a questa musica dipende comunque da quello che succede a questa musica alla sorgente, quindi in Giamaica. C'è, credo, però non sono un esperto, ma credo ci sia stata una sorta di migrazione comunque da downtown a uptown, nella quale comunque un po' il reggae a livello di contenuti si è un po' così, ha cominciato a mettersi la camicetta, a fare un po' il fighetto. Questo senza dubbio è successo. si parla di hipster, come tutta un po' la scena reggae revival, le critiche almeno gli danno degli hipster, anche perché gente che non viene dalla polvere come magari Bobo Dread o comunque le generazioni precedenti. Sì, ma non mi riferisco necessariamente a tutti questi qua della scena reggae revival, magari a qualcuno sì, ma voglio dire, quello che è successo è questo. Allora, è chiaro che la musica che fa da padrone a Downtown è la dancehall, ma non è una novità, nel senso che questa cosa è una dinamica che va avanti da decenni. Però forse il reggae ha smesso di rappresentare qualcosa a un certo punto, uno perché hanno smesso di fare reggae, parliamoci chiaro, e due perché appunto nello spostarsi da sud a nord, tra virgolette, è un po' effettivamente il reggae si è un po' infighettito e quindi ha dovuto rispondere ad altre esigenze, no? Quindi rappresentare altre persone con altre dinamiche, con altre domande, diciamo, e che necessitano altre risposte. Detto questo, adesso non so se questa è una delle dinamiche. A livello di messaggio, la musica è, nel senso, se tu sei davanti a un pubblico dal vivo e hai la fortuna di riuscire a comunicarci, probabilmente sì, però nel senso, noi comunque la musica viene veicolata su piattaforme che non sono fatte per la musica, quindi diciamo che in tutti gli sforzi che uno fa, il messaggio, sì, non lo so, la verità è che non te lo fa dire. Non ti so rispondere. No, sicuramente la risposta è nelle riflessioni. Le riflessioni sono già una risposta molto lucida anche nel tuo caso, quindi grazie innanzitutto. Oggi devi spendere un sacco di tempo a pensare a come fare in modo che la tua canzone, non la tua canzone, ma che il fatto che tu hai fatto una canzone venga recepito da il 10% di chi ti segue, e lì va un sacco di energia, spesso purtroppo anche di più di quella che metti nella canzone stessa, ma non che ascoltino la canzone, ma che sappiano che la canzone c'è stata. Dopodiché tu metterai un 10-20 secondi di quella canzone con un videino su Instagram, e quello sarà la cosa che di quella la cosa più che ha più esposizione della canzone stessa, a meno che tu non sia molto fortunato. In questa dinamica, parlare di veicolare un messaggio, cioè, è un'ambizione gigantesca. Non so come dire, viviamo in un momento particolare, però grazie a Dio esistono i live, che è ciò che veniamo a fare venerdì, e lì le dinamiche che esistevano una volta, grazie a Dio, esistono ancora, a meno che non ti trovi un pubblico più moderno, che purtroppo, cioè più giovane, che purtroppo in certi casi ha delle difficoltà, perché sono ragazzi che magari non sono, mi è capitato raramente, però mi è capitato ragazzi che non sono abituati a vedere un concerto, non sono mai stati, non hanno mai, quantomeno un concerto vero con degli strumenti eccetera, e arrivano davanti al palco e non hanno idea di cosa stia succedendo. Non è una cosa necessariamente negativa, se accende una certa curiosità, però è singolare, diciamo. La verità è che viviamo in un momento di cambiamento e io non lo so interpretare bene, quindi questo è quello che riesco a dire in questo momento. Va bene, non necessariamente comunque uno, come diceva Fabio, deve dare la risposta secca, molto spesso le riflessioni aprono a tanta altra roba molto più interessante della risposta secca e del giudizio così netto, quindi va bene così. Io direi che, visto che è mezzanotte in punto adesso e abbiamo fatto fare più tardi del previsto, ma è stato veramente molto molto interessante chiacchierare con voi di un sacco di roba, e io non so se voi volete aggiungere qualcosa, perché non vi abbiamo chiesto niente, se voi volevate dire anche delle coordinate per ascoltarvi, seguirvi, sostenere, dire qualcosa, perché vi abbiamo bombardato di domande super tecniche e solamente persone fissate per questa roba. Ma qui sono le domande giuste, guarda, io apprezzo e quoto in pieno, quindi. Ah sì, anche perché ci si fa delle domande per rispondere alle domande, siccome magari noi ci teniamo a reggae, però chiaramente veniamo anche ogni tanto messi sul, no, non alla gogna, però messi, cioè ci vengono chieste delle cose che noi stessi già ci chiediamo. A me è piaciuta la risposta di entrambi, entrambi, come ho già detto, li trovo estremamente lucidi, più di me, e soprattutto sintetici. A me piace molto, tornando un po' anche alla risposta di Paolo, erano altri tempi, come dice Lorenzo, quindi non si possono dare delle risposte assolute né fare delle analisi assolute. Però una cosa che per me è sempre un faro, anche se non sono un autore, non sono un artista, però nel mio piccolo anche di divulgatore, un esempio che faccio è sempre l'approccio, per esempio, che c'è stato in Inghilterra negli anni '80 dei punk sul reggae, cioè che non si sono spogliati. Non si sono spogliati delle creste, delle borchie e degli orecchini per avvicinarsi a un genere e perdersi. Hanno comunque visto cosa li univa, per buona pace di Bob Marley, che all'inizio era abbastanza scandalizzato dall'estetica dei punk. Hanno visto quello che metteva in comune le due comunità freak, cioè lontane dal Babylon System, cioè quelli un po' non proprio reietti, ma insomma stavano lì, per portare avanti un cammino. E questo è un po' un esempio che io cerco sempre di tenere in mente, perché penso che ci sia anche una responsabilità di rispetto al proprio tempo e al proprio spazio, quindi non solo andare dall'altra parte del mondo per perdersi, ma cercare di arricchire con qualcosa anche di personale. Questa era la risposta, questa era la mia intervista a in questo stesso programma. Adesso me ne posso andare. Questa era l'intervista a Fabio B, che se volete potete venire a sentire, che mette qualche dischetto dopo Dub Files e Mellow Mood prima dell'alba, venerdì prossimo a Forte Prenestino. Ricordiamo che alle 18 c'è la presentazione di questa roba che abbiamo appena acceso, ossia il Dub a Terni, in provincia di Terni. Venite a scoprire che cos'è e quali sono i progetti futuri, presenti, passati della radio. Sostenete la radio. E ci saranno anche ci sarà il live dei neurologici. Esatto, è vero, verissimo. C'è una realtà che adesso è diventata anche produttiva, nel senso che ha ristampato e stampa delle cose, che è una domanda che abbiamo saltato con Paolo, ma ci sarà un'altra occasione rispetto al Pressure Sound. Comunque ci saranno il Real Rock Hi-Fi con loro sound system e che hanno avuto anche loro delle esperienze di recupero di brani del passato in stampe su vinile, riedite, come detto. E a chiudere appunto Morfire insieme a Masha Babylon. Fulcro dello show, come abbiamo detto per tutta la serata, è Paolo Baldini Dub Fire insieme a Mellow Mood in questo Magnana Dub, cioè rivisitazione dub dell'album Magnata. Magnana, che ormai Magnata è un lapsus romano, Magnata. Dell'album Magnata, che è ormai una tradizione, come era stato per Large e poi Large Dub, che è ancora più indietro una tradizione della musica giamaicana. Venite ad ascoltare, seguiteli sui loro canali, che adesso chiediamo di ripetere anche per sostenere, perché se no tutta questa macchina non può andare avanti. Quindi ci saranno dei canali, immagino Bandcamp, come o addirittura appunto il sito della Tempesta Dub. Potete ripeterli voi? Beh, c'è il Bandcamp sicuramente, soprattutto quello Bandcamp di Paolo va molto forte, perché del genere dub c'è chi... alla gente piace anche comprare i prodotti legati alla musica, che è un bene. Ci sono i supporti del vinile. E, quindi sì, siamo su Bandcamp e poi guarda, in verità su qualsiasi sulle piattaforme social basta che uno scriva Paolo Baldini Dub Files o che scriva Mellow Mood, ci si trovano solitamente sempre i primi risultati, anche su Google, quindi ci trovano così. Facile e diretto. Va bene, altrimenti venite al Forte Prenestino venerdì. Quindi ci andiamo a sentire l'ultima canzone. Tindere. Grazie, raga, grazie veramente. Grazie per la pazienza che è stata testata. Sì, esatto, per la pazienza che è stata testata per il live, ma anche degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ci andiamo a sentire Mr. Global, così, perché l'ho scelta io. Mellow Mood con Kababa Pyramid. Dai, buonanotte da Morfire e da Mellow Mood e Paolo Baldini. Dalla Radio Onda Rossa per questa notte è tutto. Ciao, a domani con la rassegna stampa alle ore 8. Melodies and little misdemeanors. Now you're charging us with felonies. I have to burn the fire for the hell of it. Mr. Global, Mr. Global, I bet you have to give few songs. Mr. Global, Mr. Global, too busy putting all man down. Mr. Global. Lies you a tell too long, Mr. Global. Mr. Global. Too busy putting on man down. You call me like a habachat, yeah. Mr. Global, accurate, accurate. Mr. Global, lie you a tell. Mr. Global, lie you a tell. Mr. Global, lie you a tell. One bag of talking. Mr. Global, lie you a tell. Watch it in a Mr. Global.